chi invece pensa di andare a correre su percorsi sterrati in mezzo a boschi o anche semplicemente in campagna, oggi tutte le ditte stanno facendo delle ottime scarpe definite da trail running, addirittura in Gore-Tex, per cui uno può correre tranquillamente nel fango senza bagnarsi i piedi, e soprattutto hanno un grip, cioè hanno una suola che consente di attaccare, di aderire molto al terreno, e quindi si evitano problemi di scivolamento e la corsa diventa molto più divertente. Quindi ce n'è per tutti i gusti e per tutti i piedi. E per vedere se sono consumate dobbiamo metterle magari via, buttarle o usarle non più per correre? Come facciamo, oltre all'indicazione dei chilometri? Magari non abbiamo la possibilità di conteggiare quanti chilometri hanno fatto le nostre scarpe. C'è un modo visivo per rendercene conto che devono andare in pensione? Sì, ci sono due sistemi. Primo è attenzione ai primi doloretti che vengono, perché appena vengono qualche doloretto, la prima cosa è controllare le scarpe. Come si fa a controllare le scarpe? Semplice, le mettiamo su un piano davanti ai nostri occhi, può essere un tavolo, e li vediamo se la scarpa è sempre bella compatta come era all'inizio, oppure pende, cede da una parte o cede dall'altra. Quando la scarpa cede vuol dire che ha perso potere ammortizzante, e quindi è giunto il momento di cambiarla. Ecco, una prova che non va fatta con i mariti, perché sennò Fulvio. Allora, grazie a Fulvio Massini, consulente per l'allenamento, coordinatore tecnico di Runner World Italia, autore di Andiamo a Correre, per queste preziose indicazioni. Fulvio, grazie, a presto e buonissima giornata e buona corsa. Scrupolosamente buona corsa. Scrupolosamente buona corsa. Grazie a voi che mi avete seguito. L'appuntamento, come sempre, torna domani dopo il GR delle 11. Buona giornata e buona corsa se vi è venuta voglia di correre, da Nicoletta. Essere e benessere. Il contrasto dei sentimenti è un viaggio che i libri del passato hanno raccontato con parole che rimarranno nel futuro. Pagine per il futuro, 8 incontri organizzati da Radio 24 e il Piccolo Teatro di Milano con personaggi del mondo dell'economia, della politica e della cultura. Giovedì 6 giugno l'attrice e scrittrice Lella Costa parlerà di curiosità e apatia prendendo spunto da 3 libri: Piccole donne, Alice nel paese delle meraviglie e Alice nello specchio. Modera la giornalista di Radio 24 Alessandra Tedesco. Appuntamento giovedì 6 giugno alle ore 18 al Piccolo Teatro di Via Rovello 2 a Milano. Tutte le informazioni su radio24.it e piccoloteatro.org. Pagine per il futuro, i libri da lasciare in eredità alle prossime generazioni. La riunione di condominio è fissata giovedì su Radio 24. Dal 6 al 27 giugno, Salva Danaio ospiterà i giovedì del condominio, 4 appuntamenti settimanali per affrontare le diverse tematiche della riforma e rispondere alle domande degli ascoltatori. I giovedì del condominio, ogni giovedì alle 12 su Radio 24. In collaborazione con ANACI, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari. Sempre al telefono, Beh, ho un all-inclusive per partita IVA. Ma sei sicura di risparmiare con questi prezzi che cambiano continuamente? Certo, e poi se Win Business abbassa il prezzo, lo abbassa anche a me. Per il tuo lavoro passa a Win Business e scegli all-inclusive Unlimited. Chiamate, messaggi e internet power 2 giga. Unlimited a 29 euro al mese IVA inclusa per 5 anni. L'unica che si aggiorna sempre con il miglior prezzo Wind. Vai nei negozi Wind entro il 9 giugno. Costi e condizioni d'uso lecito e corretto del servizio su winbusiness.it. Foppa Pedretti presenta Gulliver, lo stand di biancheria pieghevole. Lo apri come ti serve e ha una disponibilità massima pari a 27 metri di filo per stendere. È grande, grande, grande! Ma come grande? Hai presente la mia chitarra? Foppa Pedretti, l'albero delle idee. Sì, sì, un'azienda, io stai cercando agenti, mi vai sul sito agente.it. Rappresentanti oppure venditori, mi sembra sul sito agente.it. www.agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Anche a Milano. Che cosa mi piace davvero? Fare le coccole alla donna della mia vita, che ha 4 anni. Cantare a squarciagola una vecchia canzone mentre guido. Ridere fino alle lacrime per aver fatto un gol a Giovanni. Un prato, gli amici di sempre. Un panino ed estate. Le cose semplici, vere, hanno un gusto speciale. Come estate, vero infuso di foglie di tè. Estate, davvero. vero come te. Parlami di te su estate.it. In vacanza con la libreria in valigia? Da un euro puoi! Con l'abbinata d'estate! TV LED Samsung 32 pollici più ebook reader Kobo Touch! Insieme a soli 349,90 euro dal 6 al 19 giugno. La primavera del Rinascimento. I capolavori di Donatello, Brunelleschi, Ghiberti dai musei di tutto il mondo insieme per la prima volta. Una mostra imperdibile a Palazzo Strozzi fino al 18 agosto. Firenze, www.palazzostrozzi.org. Caro divano, ti ho scelto, ho risparmiato e ti ho portato subito a casa. Poi però mi sono detta, con questi vantaggi perché non comprare anche una poltrona, una lampada, un tavolino? Insieme state benissimo. Da Divani e Divani by Natuzzi fino al 23 giugno hai tre buoni motivi per venire a trovarci. Su tutti i prodotti in esposizione, sconti irripetibili, pronta consegna e pagamenti personalizzati. Occasioni così hanno i giorni contati. Divani e Divani by Natuzzi, a misura dei tuoi desideri. Divaniedivani.it. Ma lo sai che da expert sui climatizzatori inverter super silenziosi ad alto risparmio energetico, freddo d'estate e caldo d'inverno, ti danno un doppio sconto? Ma dai, possibile? Sì, prezzo scontato ed in regalo fino a 4 anni di consumi energetici. Come il climatizzatore monosplit Daikin New Classic, classe A+, funzione Eco Mode per il massimo risparmio che col doppio sconto costa solo 749 euro. Offerta valida nei negozi aderenti fino al 15 giugno 2013. Inverter e doppio sconto solo da expert. Ciao, sono Max Pisu. Hai sempre sentito parlare di adozione a distanza, vero? Ma ci sono molti bambini che hanno bisogno di aiuto anche in Italia. Partecipa l'8 e il 9 giugno alle giornate dell'adozione a distanza e in vicinanza e scoprirai tutti i nuovi progetti della Fondazione Aiutare i Bambini, dedicati al nostro paese. Cercaci nelle piazze italiane e nei megastore prenatal. Scopri di più su aiutarebambini.it. Ciao, da Max Pisu. Ciao, sono Blu. La mia passione è cantare e ballare. Sono briosa, brillante, leggermente frizzante. Anch'io canto e ballo. Sono la rossa, frizzantissima. Siamo le gemelle Blu Rocchetta. Rossa, frizzantissima. Blu, leggermente frizzante. Acqua minerale Brio Blu. Rossa o blu, mi piaci tu. Ed è Rocchetta. Incontri con imprenditori, economisti, uomini di cultura che parlano della loro esperienza, dei loro valori, della loro visione del mondo.